Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin. E con l'inarrivabile melodia del nostro Dino Zandegu, siglaiolo professionista invidiato da tutto il mondo, benvenuti al nuovo episodio di Radio Bidon, il secondo dall'inizio del tour, il terzo se consideriamo anche il numero zero, un episodio che si svolge nuovamente completamente via Skype, con nomi che pian piano vi introdurremo. Il primo nome che vi introduco subito, e avete già conosciuto negli altri episodi di Radio Bidon, che purtroppo quest'oggi è via Skype e non può più essere qui con noi e ora ci spiegherà perché, è Leonardo Piccione. Il motivo qui con noi fisicamente è dovuto alla nazionale di calcio islandese. Esatto. Sono stato con voi a Milano perché ho commentato le gesta degli eroi islandesi insieme alla Jalappas su Radio 2. Adesso che è stata eliminata la nazionale islandese, sono tornato a casa anch'io insieme a loro. Sono tornato in Puglia, loro sono tornati a Reykjavik. E tra l'altro sto vedendo proprio ora le immagini del rientro della squadra di ieri sera a Reykjavik ed è stato splendido. C'era un pubblico meraviglioso ad attenderli. Vogliamo immaginare che anche gli islandesi si siano fatti eliminare apposta come i belgi e gli italiani per vedere il Tour de France. Questo faccio più fatica a immaginarlo perché il ciclismo in Islanda praticamente è inesistente. Ti dico, la mia esperienza col ciclismo islandese è legata al fatto che avevo prenotato un'escursione in mountain bike 2 estati fa in Islanda, tra l'altro costosissima perché devi andarci con degli istruttori professionisti perché altrimenti è pericoloso girare in bicicletta nelle colline islandesi. Il mattino della famosa biciclettata, uscita in bici, una tempesta mai vista, era luglio, i telegiornali chiedevano alle persone di restare a casa se potevano, chiaramente uscita in bici annullata, e questa è la storia di chi vuole uscire ogni tanto in bici in Islanda. Per questo è uno sport che obiettivamente lassù è un po' difficile curare. Potrei proseguire con tutti i miei aneddoti sull'Islanda, ma forse non è il caso. Faremo una puntata speciale. Faremo Radio Bidon Son prossimamente. Ti chiedo soltanto quando è quindi l'anno del primo vincitore islandese del Tour de France. Primo vincitore islandese al Tour? Una tappa o il Tour proprio, dici? Il Tour, chiaramente. Il Tour andrei dopo il 2025, così. Va bene, vedremo di arrivarci. Nel frattempo, per arrivarci e per aiutarci a raggiungere i Tour del futuro, questa sera finalmente abbiamo un ospite, il primo di una lunga serie. Dino Zandegu non lo consideriamo ospite perché è uno di noi. E stiamo parlando di un ospite che non conosciamo in faccia, fortunatamente siamo via Skype. Per noi, fino ad oggi, era un account Twitter. Noi siamo veramente esaltati dal commentare il ciclismo su Twitter, è una cosa che ci diverte un sacco. Tra i vari account, uno dei nostri preferiti, almeno in Italia, è la Fiamma Rossa, per cui stasera abbiamo coinvolto Simone. Ciao ragazzi, ciao a tutti i ragazzi di Bidon, intanto vi ringrazio per lo spazio dedicato. E niente, io sono Simone, e mi trovate alla Fiamma Rossa e lì potete trovare in pratica un po' tutto di quello che raccontiamo, ecco. Per il resto io sono un po' in imbarazzo a dirla tutta perché addirittura ho sentito la voce di Gianni Mura e passare dalla crema che è Gianni, la crema Chantilly direi, che è Gianni, alla crema del discount che sono io, fa abbastanza effetto, ecco. Guarda che ci ha detto proprio lui di fare l'alto e il basso, quindi sentiti, ecco, allora, perfettamente. Allora, tuo in questo momento mi sciolgo e ci vediamo poi prossimamente. Senti, ti troviamo all'ultimo chilometro, nel senso che tu sei lì tutti i giorni, sì, ti troviamo alla Fiamma Rossa, nel senso che tu sei lì, esatto, tutti i giorni all'ultimo chilometro della tappa? Esatto, preferibilmente con una birra in mano. Non pensavo esistessero altri modi per assistere a una corsa di ciclo. Vabbè, mi sembrava giusto puntualizzare. Ok, con una birra in mano siamo anche già stamattina, perché durante le 3 settimane di Tour de France bisogna carburare già da parecchi chilometri dal traguardo, tendenzialmente bisogna carburare già dal chilometro zero, e abbiamo un esempio perfetto questa mattina, pensando alla tappa di ieri, di persona che ha veramente carburato dal chilometro zero. Questo esempio si chiama Armindo Fonseca, è assolutamente balzato in testa alla graduatoria dei nostri idoli del Tour de France 2016, dopo la follia, perché io non so assolutamente trovare altri termini più adeguati, di partire da solo all'attacco al chilometro zero in una tappa di oltre 200 km destinata ai velocisti, per cui sapendo benissimo che non sarebbe arrivato da nessuna parte, chiaramente non è arrivato da nessuna parte, però ci è arrivato in compagnia perché lo ha raggiunto un fuggitivo che è un altro di quelli a cui dobbiamo tanto cuore, che è Thomas Vauclair, e poi la tappa è andata come è andata. Armindo Fonseca però ha subito un torto, mi confermate, sul traguardo? Eh sì, perché è stato assegnato a Vauclair, al suo compagno di fuga, per metà fuga, fuga, non di tutta la fuga, il premio di miglior combattivo di giornata. No, non ci trova assolutamente d'accordo questa decisione, ma tant'è, perso diciamolo anche... Diciamolo pure, è stato un furto, è stato un vero furto. Siamo al primo scandalo di questo tour. No, non siamo a livello di scandali, però dispiace perché un corridore come Fonseca non sappiamo se avrà un'altra opportunità così grande di poter ricevere, anche se simbolico, comunque un riconoscimento, quindi ci dispiace, tutto qua. Beh, secondo me lo rivediamo comunque, a parte che uno che si chiama Armindo secondo me va tifato in qualsiasi situazione. Sono d'accordo, a prescindere. Un po' come Amintore, non so, uno di questi nomi che bisognerebbe scoprire. Dopo Fanfani si sono eclissati, un po' persi. Comunque l'avventura di Fonseca e Leclerc purtroppo non è arrivata a destinazione. Ci avevamo creduto, benché non ci credessero più nemmeno loro, ma noi ci avevamo creduto. Al traguardo poi noi siamo alla seconda puntata di Bidon da quando è iniziato il tour, ed è la seconda volta che commentiamo una vittoria di Mark Cavendish. Stavo pensando che se ne prendiamo una terza, ribattezziamo direttamente la trasmissione Radio Cannon. Sì, Simone, come ha fatto a tornare a questo livello secondo te Cavendish? L'avevamo un po' considerato forse troppo poco prima della partenza del tour? Ma probabilmente dal punto di vista tecnico, per quel che può contare a mia opinione, un po' di allenamento della pista in vista delle Olimpiadi in cui lui gareggerà proprio sulla pista potrebbe averlo aiutato, non so quanto, ma è un allenamento particolare e potrebbe aver influenzato. Indubbiamente, credo anche che dopo aver vinto la prima tappa gli si sia veramente un po', gli si sono aperti dei chakra, come dire, corre molto più sereno e questa cosa... Nella tappa di oggi si è visto, perché è una tappa che se non era solo una questione di gambe, l'ha voluta vincere. Io sulla tappa di oggi non credevo molto in Cavendish, a dire la verità, perché non era un arrivo propriamente suo, anche se magari poteva tagliare le gambe a gente come Kittel, però bisogna anche pensare al fatto che lui si ritrova come treno gente come Eisel, Vossenhagen e ultimo uomo Renshaw. Praticamente l'ATC di qualche anno fa. Ecco, va detto che Eisel oggi ha brillato anche per una serie di dichiarazioni che ha lasciato a fine tappa. Una di queste è un'intervista a Cycling News in cui, alla luce di alcune cadute, chiede che la neutralizzazione venga avanzata dai meno 3 ai meno 5 km dal traguardo, una scelta che a mio parere comincia a avere un po' poco orizzonte sul futuro, nel senso che se andiamo avanti così a un certo punto neutralizziamo direttamente dopo il primo chilometro di gara e potremmo avere Fonseca vincitore del Tour, per cui da certi punti di vista è anche vantaggioso, però non si capisce tanto questo tipo di richiesta e di critica quanto abbia senso nel ciclismo di oggi. Peraltro, con alcune modifiche regolamentari così invasive, per esempio anche uno come Eisel rischierebbe di uscire dalla classifica che più ci interessa del Tour de France, ovvero la classifica che l'altro giorno abbiamo chiamato colpevolmente la maglia nera, in realtà si chiama classifica la lanterna rossa, ovvero quella letta dal basso verso l'alto, dove Eisel si trova in settima posizione. È una classifica ancora dai nomi nobili perché Maika è ancora in top 10, però è una classifica in cui oggi si è visto qualcosa di forte, quasi un ribaltone con il danese Morkov, gran professionista di questa disciplina, che è riuscito a staccare l'ex lanterna rossa Bennett dagli già 4 minuti. Ed è qui che il Tour de France si sta infiammando, forse più qui sotto che in cima, non so, magari la Tinkoff. L'altro ieri abbiamo visto un po' di critiche su come si è mossa la Tinkoff. Cosa succede? Sagan ha scavalcato Contador nella graduatoria del capitano? Sì, diciamo che la tappa dell'altro ieri è stato un po' particolare, con Stuyven che per poco non riesce a raggiungere la meta in solitaria, e io in questo speravo molto. La Tinkoff ha provato a rientrare con quanta ne aveva con Kreuziger, probabilmente dimenticandosi del fatto che chi deve vincere il Tour è Contador, però non mi sento di colpevolizzarli, ecco, diciamo che per Sagan vale tutto. Ok, fin qui abbiamo guardato a quello che è stato in questo Tour de France e in questo ciclismo. Per guardare a quello che sarà abbiamo il nostro inviato che parla. Finalmente, il mio momento preferito. Sta diventando il momento preferito di tanti. Sembra che Beppe Conti sia terrorizzato perché il suo indiscreto ormai è minato dalle fondamenta. D'altronde c'è chi ha l'indiscreto. Noi abbiamo Francesco Bozzi, ovvero l'invadente. Indiscrezione a metà tra gossip e mercato, presa direttamente dall'arrivo di ieri di Angers. Pare ci sia stata una colluttazione anche abbastanza violenta tra Armindo Fonseca, protagonista della fuga di ieri, e il direttore della sua squadra, la Fortune O, come mi insegna a pronunciare il mio professore Gigi Sgarbozza, Emmanuel Hubert. Cosa è successo? Emanuele Huber, preso da un'ispirazione direi kautsiana, ha, in vista del 14 luglio, epurato tutti i corridori non francesi dalla Fortuneo, quindi via Brenne, via Utarovich, via Maclay, via Vallée, via Sepulveda e via anche il povero Sorensen che aveva lì la pensione a un passo, andata. Fatto sta che però Huber, preso dalla foga del momento, ha licenziato anche il povero Fonseca che aveva fatto tutti i chilometri di fuga, aveva perso la palma come miglior combattente in favore del solito Vauclert e si è visto anche licenziare da Huber, che però si è dimenticato che di fatto Fonseca non è straniero, è pienamente francese essendo nato e cresciuto in Francia solo di origini portoghesi. Quindi Fonseca ha saputo tutto ciò, si è gettato al collo di Huber e ci è voluto un po' per separarli. Questa colluttazione lascia un grande quesito di mercato, ovvero dove correrà oggi Fonseca? Correrà ancora nella Fortuneo? La vediamo molto dura. Correrà come Apolide, quindi senza squadra? Non credo che il regolamento lo permetta. Oppure avrà cambiato casacca nella notte? Grandi quesiti con pochissime risposte fino allo start di oggi. E quindi noi già abbiamo pochissime risorse, quelle che abbiamo le usiamo per mandare Francesco in Bretagna a scoprire robe sulla Fortuneo. E tra l'altro io vorrei capire Sepulveda, che è uno dei miei favoriti in assoluto, che fine farà a questo punto. Adesso mi chiedo oggi per chi correrà. Oggi per chi correrà Sepulveda sarà difficile capirlo. Speriamo che corra, speriamo che corrano come ha corso Fonseca ieri e non come ha corso tutto il resto del gruppo, perché il rischio di vederci un'altra tappa, diciamo pure soporifera, è forte. Poi noi abbiamo le nostre risorse per sopravvivere, in gruppo chiacchierano Guarda, e poi ci stirano. c'è il tweet di Vegard Brain, della Fortuneo, sempre la nostra ormai squadra preferita del tour. Lui ogni giorno parla, scrive su Twitter quelli che sono stati gli argomenti di cui si è parlato in gruppo durante la tappa. Allora, ha scritto sulla tappa di ieri. Hanno parlato di giorno di riposo, cosa mangiare durante il giorno di riposo, programmi per le vacanze, la tappa del giorno precedente, i campionati nazionali, chi ha vinto i rispettivi campionati nazionali, e gli europei. Questi sono stati gli argomenti preferiti dal gruppo ieri, che obiettivamente ha avuto tempo. Ieri c'è stato tanto tempo per parlare d'altro in corsa, mi sembra. Speriamo che oggi le cose vadano diversamente, perché il rischio però c'è, perché è la tappa più lunga del tour. Quanti chilometri sono? Sono 237,5 km di questa tappa che parte da 237. Saumur, città che ha dato i natali a Coco Chanel, leggo su Ah, Cicloweb, però. diciamo, un bel omaggio anche ai nostri amici di Cicloweb, e si arriva a Limoges che, non lo so, per me che forse ho qualche anno in più o forse no, non lo so. Limoges è un ricordo triste ma travolgente della mia educazione ciclistica perché l'arrivo di Armstrong nel 95, pochi giorni dopo la morte di Casartelli, quando andò a vincere la tappa in solitaria da una fuga, e Armstrong allora era veramente poco più di una giovane speranza, benché avesse già vinto un mondiale, e concluse la tappa indicando il cielo e dedicando la corsa a Casartelli. Per quanto mi riguarda, è uno dei ricordi più forti di tutta la mia vita ciclistica. C'è comunque un arrivo che potrebbe essere abbastanza impegnativo, c'è quindi il rischio che la corsa si svegli proprio negli ultimissimi metri e a questo punto non possiamo che sottoporre il nostro ospite alla gogna del pronostico, il pronostico su chi vince, ma soprattutto il pronostico su quale sarà l'argomento di discussione in gruppo e volendo anche dei tweet che leggeremo oppure dei Twitter, come diceva la nostra zia Alessandra. Eccolo, preso in pieno. Allora, per quanto riguarda la tappa di oggi, io, sempre da romantico, spero un sacco in un Cavendish che lavora per Bossenhagen. Spero, ovviamente, in vano. Altrimenti vedo un sacco bene Cocard e Michael Matthews. Riporrei su di loro i miei pochi quattrini. Kittel tagliato fuori anche oggi, secondo te? Sì, credo di sì. Sembra un arrivo abbastanza difficile, abbastanza particolare. Prenderanno la salitella finale, se così possiamo chiamarla tutta, però visto oggi probabilmente sarà tagliato fuori. Poi Cauzi, magari. invece, io volevo chiederti una cosa, tu che sei super esperto, ma tu sai qual è la tappa più lunga di sempre della storia del tour? Mi rifiuto di rispondere a queste domande in stile Beppe Contiano. Allora io te la dico in stile Beppe Contiano, è la Les Sables d'Olonne Bayonne del 1919, 482 km, coperti in poco meno di 19 ore. E sai in quanti arrivarono alla fine di quel tour? 37. Arrivarono in 10. Il tour con il numero minore di ciclisti arrivati al termine. 1919. Devi ancora prepararti un po' sulla voce flautata, secondo me. Sulle nozioni, però, sei sicuramente avanti. Sono sulla buona strada. E per quanto riguarda l'argomento in gruppo, probabilmente un complotto riguardo il photo finish della tappa di ieri. Li vedo abbastanza incazzuti su quell'argomento. Si può dire? Certo che si può dire. A questo punto diciamo che è la tappa dei complotti. Fonseca scippato da Vauclair e un photo finish discutibile. Sembrava per lui. Era chiarissimo. Non fosse successo nulla, invece stiamo scoprendo. Un tour già falsato in pratica. Forse sì, forse è il caso davvero di chiudere tutto e dedicarci solo alle puntate di memorabilia delle vacanze in Islanda. Nel dubbio abbiamo una piccola anticipazione, forse, della rubrica che ci accompagna in tutte le tarde serate del nostro Tour de France. E nei prossimi giorni, pian piano, arriverà anche sul nostro sito internet, nuovissimo, lanciato oggi, bidonmagazine.org, lanciato con un'intervista a Gianni Mura. Gianni Mura non ci ha insegnato come si usano le nuove tecnologie, per cui ci metteremo un po' di tempo anche noi a imparare a caricare tutto quanto, ma pian piano arriverà subito, così come arriverà del materiale anche sui canali della Fiamma Rossa. Immagino, Simone, se vuoi lanciarci già delle grandissime anteprime, vai pure. Sì, Filippo, potete controllarci sul canale Twitter @lafiammarossa, troverete tutto lì. Non vogliamo controllarvi, vogliamo vivervi un po' come vogliamo vivere questo Tour de France tramite parole. Romanticissimo, non è mia ovviamente, vogliamo vivere questo Tour de France tramite le parole di Angelo Trofa, a cui lasciamo in questo momento la linea. Salve a tutti, il brano che sto per leggervi è un brano di Alfonso Gatto scritto per il Giornale del Mattino il 22 giugno del 1958 ed un brano con il quale Alfonso Gatto ci presenta un'ottica speciale con la quale guardare alcune tappe del Tour, è l'ottica del poeta. E lui ci dice come ogni chilometro in tappe anche lunghissime è un chilometro che è potenzialmente fondamentale, cruciale. Se vi chiedete perché uno scrittore o un poeta si interessano al tour, ricordate che il tour è un grande fatto umano, le cui parole non sono mai dette a caso, mai avventate, ma serie e assolute. Direi tracciate, graffiate sillaba a sillaba nella resistenza di tutti i minuti. Metro per metro per 4.282 chilometri di pianura e di montagna, nel solleone delle pianure e del mare o nel freddo celeste delle montagne. Ci saranno città nuove, paesi ancora inediti per il tour e città ormai affidate alla gloria e alla leggenda sportiva della Grand Boucle. Incontreremo grandi estuari, porti fortificati sulla Manica e sull'oceano, basi sottomarine, un monte spezzato dal vento come un rogo davanti al Mediterraneo. Entrerà, speriamo, la luce sulle nostre pagine di ogni sera, sul nostro diario di spettatori appassionati e partecipi, e gli umili avranno il loro posto accanto ai grandi, le glorie di un traguardo accanto alle vecchie glorie della classifica. Niente di meglio di questo brano di Alfonso Gatto per consigliarci e consigliarvi di seguire il Tour de France anche oggi, nonostante la lunghezza, nonostante la probabile noia delle ore pomeridiane. Ringraziamo Angelo, ringraziamo anche Simone che è stato con noi oggi. Grazie a voi ragazzi, un saluto e un abbraccio anche ad Armin Fonseca. Nei prossimi giorni avremo altri ospiti, cercheremo di coinvolgere più persone possibili. E Kaut, ci siamo? Il momento più atteso ci siamo, della siamo puntata. Siamo in trattativa con altri grandi ospiti, ce n'è uno che arriva sempre all'ultimo minuto. Lui io c'è voglio sempre. Un commento sulla tappa, ma arriva sempre all'ultimo istante. A lui però canta, cioè non è che gli puoi chiedere i commenti sulle tappe. E a questo punto faccio una conclusione alla Pippo Baudo di Zandegu, De Luca Zandegu, vieni al Tour de France. Ciao, a domani. Vieni al Tour de France. Vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia pua. Poi chi vince il tour nella storia entrerà. Olè!